Cuando ya me esfora scarta bel e me compagni me la dita, mi non volevo creder che ero convinto che mi tolesse in giro per il fatto che mi non son tan bon de leser. Poteva essere scritto quel che voleva lui su quel muro. Allora, godit, va là, nemmona, va là, vilani, che non sia altro. E lui rideva, rideva. Deve vedere con te la faccia del cieco Beppe, con rispetto parlando, e rideva. A dire la verità, quella faccia, quel vecchio pelà coi baffi, le barbise lunghe dalle bande, non la prometteva niente di buono. Dir la verità, mica avevo paura. Così son coresta al parroco, che feva da campanaro, e allora potevo domandargli un piacere. Scusemi, signor parroco, ma coi quattro saltroni si mettono in giro perché mi non son tan bon de leser. E so, la di lui, perché sa che è da leser. Le venì con me, fino al mur drio la scuola. La guardà scritta bene, poi la scorrà la testa, e non la di niente. Gaveva d'oci, come gavesse danna carga de bote. Mi non mi fidevo domandargli niente. Volevo sentirmi rispondere. Oh, pensa girava veste mi. E la sua voce la pareva venir su da sottoterra. Le vera, Beppino. Le vera. Noi te toleva in giro. Volta est, giusto quel momento che basteva per tirare il fiato volte, poco domandà, e la mia voce la veniva su da sotto di la sua. Come? Le vera? Mi son mi sol, sa volenda mi. Se mia e mia mamma, come farà la a tirare avanti se mi vago via? Lo s'avvia verso la canonica, pian pianino, e mi drio, e un paspo un drio, come se mi tirisse. Non so sa dir, Beppino. Ma voi sei il parroco? Sì, sono il parroco, ma non so sa dir lo stesso. Beppino, vuoi che venga a tua casa a dirglielo a tua mamma? Mi venne un frezzo per la schiena. Di solito il parroco leva ante le case per benedirle. Se era qualcheduno di malà, o se doveva dirgli a qualcheduno che era morto un parente stretto fuori di casa, e marì, e fiol. Mi ricordavo ancora quando le era venuto a dire a mia mamma che mi porto male era coscascante in cross, che era scappampè sul sentier solo alla viana. La faccia di mia mamma, la mia non l'ho vista, come se fa. La faccia del parroco, come se fosse morto uno dei suoi. Come adesso. Ma son te dirò morir. No, non sta a dirlo neanche per scherzo, le sbrucca. No, però te devi partire. Bisognerà che te stai attento, attento, attento. E tua mamma, mettila come che te vuoi, la resterà da sola anche stavolta. Ben, te vederai che i paesani, i che sarà d'aiuto, chi sentuti i zini, parlerò mi con loro. Ma so che la Mariotta la patirà. Prima son marì, che era quasi pena maridai, e adesso mi. Adesso che te potevi dargli un po' di sollievo. Povera cristiana, Gesù Maria, Vardenzò, cosa serve la sta guerra? Tutti sti uomini, sti putei, mandai chissà dove. Ma cosa dice su, signor parroco? Niente, non sta a farmi caso. Quel che comanda, mi sa quel che fa. Sperente. Ricordate di dir sempre le tue orazioni, che quelle le te consolerà e le te farà compagnia. E parleva con me, tanto mi accompagnava alla stazione, al vo. Da dir che l'era lì per tutti, ma parleva con me solo. Poi la sbassava la voce, da far fatica a sentirlo. Se capisci che te hai da fare il tuo dovere, da obbedirvi ai tuoi superiori, ma pensa anche a quei che te hai di fronte. I cristiani anche loro, i pora gente, che alla sua casa una sposa, una mamma e un fiore. Chi? I nemici? Co domanda a me. Luna sbassa la testa, come se avesse sudizio. Nemici, la dite. E poi non capì cosa che voleva dire. Tanto rimane la stazione. Era due vagoni pronti dove noi dovevamo immuciarli. Ma prima tutti i santi nociai e il parroco la dà la benedizione. Diceva su un mucio de slambroti in latin e continuava a benedirle. Dico che avremmo fatto 7, 8 segni dalla croce. Pareva che ogni cacerata che il feva la dovesse tenirne lontane le disgrazie. Fosse montati sui vagoni, per via che era già la macchina pronta a attaccarsi e a tor sui vagoni man man che si viaggiava verso il Tirolo. Ma prima ancora che mi potesse rampegarmi per trovare un posto, il Madit ha visto qualcheduno dei tuoi compagni. Sì, che ne chi diversi, lori e i buoni da leggere e da scrivere. Sì, mi pare sì. Allora dighe che metta le tue notizie nelle sue lettere, e noi faremo parimenti con quelli di tua mamma. Si vedeva che era sollevata dal fatto di aver trovato modo per poter averle notizie sia me che mia mamma. A dire la verità ero contenta anche a me. Dopo che avevo salutato mia mamma, e Dio sa quanto che mi costà, sciopare a pianza, ma che era Zaina che aveva la parte di tutti noi, con un tempo di pentirmi, di non aver fatto le scuole come si doveva. Non dico tanto, ma giusto quel che basteva per scrivere l'eser due o tre righe. Mia mamma l'aveva sempre potuto domandargli al parroco, ma mi, e pensare che quasi tutte le mattine a scuola e ne diceva quanto era infortunai che la Maria Teresa, la vecchia imperatrice, l'aveva messo obbligatorie le scuole, così da tutti poteva imparare qualcosa. Sì, magari impareva, mantanché che vivan dei boschi e in campagna. Mica avevo poca voglia di star solo ai libri, e invece me canteva al cor quando potevo nar per legna. Tutti gusti e gusti. E adesso, il mio cor è sgiovo di lacrime a pensare a mia mamma da sola e non saper niente di ella, ella niente di me. Benedetto signor parroco, mi sono impromesso che se fosse tornato d'avria suonare le campane per tutta la vita, ma costo ritirare le sole coi denti. Intanto il treno pian pian andava via. Perdevo di vista fino a San Brescia tu quel che avevo conosciuto fino a quel momento. No che fosse tanto, eh? Pur lontano che ero stare era a mamma. Al vodela a vedere da lontano la tutela che conoscevo sol per nome. A Borghetto con la barca che nevan qua e là sull'Ades, ligata a un fil de fer gros. San Leonardo, a veder da lontano la villa dei signori marchesi. E adesso il genio, che era il fattore del marchese, leva sul vagon con me. Il verdeva per terra e ogni tanto il tireva un respiro come per torre la volta al fiato. Sapevo che era sposata poco, aveva un popo di 3-4 mesi. Gli diceva che era anche a suo fratello sul vagon, ma quel non conoscevo. O pensa che neanche i marchesi ne riesce a tenerti lontani dalla guerra, neanche i fiori appena nati. Por diavolo, mi feva quasi più peccato di me. Mi sono nato vicino e ho dimandato: ti sei buono di leggere e di scrivere? Ora fa del sì con la testa come se pensasse a qualcos'altro. Allora poderesse te... Ma ho piantato subito il discorso. Lui abiteva massa lontano da mia casa. Dovevo trovare qualche dumma che non che fosse de peso far 2-3 passi per andare a trovare la Mariotta, mia mamma. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso, nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei. Per non parere manca non sa, co domanda al genio. Sapesse, genio, come narà la finire? L'ulma guardà e il aveva d'occhi come d'opuce di acqua torbola. A taseste momento e poi mi ha detto: Dio dà, Dio tol, sarà quel che Dio vorrà. Non aveva il tono di uno che sa tutto, di uno che vuoi insegnarti la religione. Niente di più di una roba che lui era convinto. Rassegna. Ma dispiaciuto proprio tanto. Allora son tornato al mio posto, che era da uno che si va messo lì a ciacolare con gli altri. Mi pareva quasi contento. Aveva appena passata, dopo essermi fermato a attaccare altri vagoni, che sti semenidi gli si è messi a cantare, come quando se ne va a fanno a camminare in montagna. Matti. Ho visto la cesa bianca su un cima al paese. Pareva che la fesse la guardia alla Val dei Ronchi. Per sentarmi a posto, El más longa al botillón. Digo, dito. No, no, gracias. Lo mal de estómago. Forse a ieri sera ho mangiato qualcosa. Ma tutti i amici a ridere. Ma va là, Peppino! E che te manca tua mamma! O te hai paura della guerra? Ma guarda che non te devi, no? Guarda che sei sicuri di vincerla! E anche un prescia! Sì, te tornerai che non ti sarai ancora buttato i cavelli! Perché? Perché quando che ti arrivi in caserma, i te tonda subito per tir lontani i pioci. Anche se lui sta lontani lo stesso. Anche questa. L'età non era niente che danzeva. E allora anche i soldi gli scapeva per andare a calmare la fan da qualche altra parte. E la pulizia che teneva mia mamma. Non la capiva neanche ante la regia del re, giuro. Linzoi pieni di tacconi a forza di doprarli, ma sempre onesti. Non si potesse mangiare per terra se ne fosse stata a mangiare. Ma quando era quelle rare volte qualcosa che non lo preve, e finiva in quel paston delle galline, quelle quattro galline, che era la passione di mia mamma insieme con l'orto. Mi giuteva un camite l'orto. Le patate era roba mia. Le verze di capusi, i sticoti dei noseleri per tenere sui fasoi, anche, insomma, i lavori da uomini. Mia mamma, con gli ovvi, la se procureva qualche tocchetto del formaggio e mineva un dei boschi a mettere le tagliole per i lebri o qualche altro selvade che servisse per tirare avanti. Tanto che pensavo a sta roba, mi sono indromenzato. E mi ha dismissato a quel punto per dirmi che era pronta la cena o di snare, non so più. Era della gente in stazione che aveva delle bronze e chiedeva un minestro due di roba calda. Io lo sapevo, salera, ormai da un pezzo, non sapevo più neanche dove ero mio. Mai visti sti posti. Però io parlava tedesco, doveva essere a Bolzano, qualcosa del genere. Anche tra di noi era qualcuno che parlava il tedesco, ma era pochi. E Drio l'idea gli credeva di parlarlo, ma non so se l'avrei capito di questi chi. Esu. Pareva di essere embriaca e non avevo bevuto niente. Finché se mi arrivai a Isbo. Signora Dio, e di che non sento in piedi. Appena tocco a Isbo, non deve altro che marciare in riga e cantare. Ma prima si canteva delle marce come se avesse andato in su tutte le guerre. Ma tu le spesso mi faceva cantare la canzone che aveva imparato anche noi a scuola. Salvi Dio l'imperatore. Ma bisognava cantarla per tedesco. E allora mi, ma anche a tanti miei compagni che ne vendrio presi a poco, feve i rumori. Marciare su quella canzonetta nera d'esca. Mi l'assumiva dese volte al dia anche quella. Perché mi pareva una roba da forte testa. Era che la sera ve ne era alquanti che canteva davanti a una birra, magari due o tre, e era sempre i canti di quei che venze. Beati loro pensare che io ero così convinti, ma anche se si venze, pensavo, quanti doverà morirne. Mi mettevo in giro perché non facevo altro che bevere acqua. E poi avevo trovato che gli austriaci qualche volta la mattina in maniera latena de male, in tocà, acido, e gli chiamava yogurt. Mi pensavo che volesse dir buono, e ho provato. Era acido sul serio, e pareva na de male, però gli aveva qualcosa di strano. Insomma, qualche lì era venuto a piastri. E siccome i miei compagni gli faceva schifo, latena de male, gli diceva, Sti chi non capisci niente, gli metteva a me anche le sue razioni. Devo dire che le ne vado meglio delle brode che ne deva da mangiare, e pareva mille volte più buono. Dopo mi insegnava a doprare sciop. Mica avevo poca pratica, perché a me can non era altro che una vecchia sciopa di me poro pupà, che bisognava cargarla buttando dentro prima la polvere, dopo le balotole, e calcar giù con una bacheta. Oh, un trapel pericoloso che mia mamma non la voleva neanche che il Vardesa. Anche se mi nascondomo, ogni tanto il volevo su per trovare, se ero buono a trovare qualche gas forse. Dovevo star su con le ricce, perché non avevo tanti soldi per la polvere e le balotole. Così da, le portevo il prosac a qualche cazzatore, che mi regaleva le cariche e così potevo sparare anche a me. A forza di far pizzichini, veniva fuori che non sbaglievo quasi un colpo. Così te lo dovevo più contare a mia mamma la storia che il Gals Forzel l'era il regalo del cazzatore. Non la faceva più questione. La peleva la casa, la che aveva i balini di piombo, la ficcava tutta in tena bronza e l'aspettava che fece il buio. Dopo la riportava in cantina al freddo. Così si faceva il gras di sora e lo tirava via per frizzare. Caso mai che fosse stato qualcosa da freezer. Insomma, che era un po' di carne per qualche dì. Anche se mia mamma, povera donna, la me mandava sempre con una terina, un po' di brodo, qualche tocchetto di sostanza da portargli alla vecchia di Giota o la Marina, quella sgherla. A me mi piangeva un po' il cuore, ma mia mamma, povera donna, la me vardeva e la diceva che sempre qualcheduno che gappufan di noi, Pepino. Sto gal non era mica tuo, è sta il regal del bosco, no del cazzatore. Aveva ragione, mamma. Adesso l'ho imparato. Ma dovessi venire fino in Russia per capire che aveva sento ragione da me. Insomma, gli insegnava ad operare sciop per far la guerra. Un bel dì s'accorti che mi c'avevo la mira pulita e s'aditi, sto chi il gaoccio. Loro non poteva sapere a dir le robe come cresteva che sto chi gli aveva fame. E l'occio è il garaisse in testoic. Fatto sta che mi ha dato sciop che pareva più bello degli altri, che spariva più presto i colpi. E se chiamava Rukzuk. Magari capi lo chiamavano in un altro modo, ma per noi soldai l'era il Rukzuk. E qui che lo aveva, gli feva strangosare gli altri, perché era d'arte, come d'arte, una considerazione, dir che ti eri più un gamba degli altri. Anche se non godita nessuno della storia del stomaco. E forse avrei fatto bene a dirglielo, perché visca a parte strangosare, gli altri ti vardeva di traverso, come se te fossi tu riparà degli altri, e invece la verga sciop, che sbariva meglio i colpi, e così gli te mandava avanti ti. Pure tu te l'hai toderli che la desbruseva. Per loro il Rukzuk era roba sua. No, per ste merde di italiani, de Valser. Anche se erano tutti i kaiserieri, che mi ha spiegato, era come i difensori dell'imperatore, i soldati più fedeli, più fidati. In fondo, a me era una roba che mi piaceva. In fondo, il vecchio coi baffi pareva un nonno che si dà pensare per la sua gente. E ai nonni gli si vuole sempre bene. E poi mi era agitato. Era la prima volta che mi importiavo dal Vic, dove abita i pupori diavoli, gli chiedevano premi così, difensore dell'imperatore. Intanto Ricchi arrivava qualche lettera per dire qualche riga delle lettere degli altri. Quasi sempre, tu mamma la sta bene, la si raccomanda che te querzi pulito, che montagna le fretta anche quando le calda. Querzete, querzete. Sì, mamma, son quert, avria volestirche. Non ste darbe pensier per me. Diseme voi di piuttosto. Ma niente abbastanza. Ma di questo mai, neanche una parola. Potevo sperare, basta. Anche a scrivergli al parroco, l'era tempo perso. Lui te feva sapere chi tu ben prega e basta. Si vede che non si fideva più che tanto. E con questi pensieri in amandai al fronte. Un'altra volta sul treno. Un'altra volta ore, ore, giornate, anar pian pianin come se non che fosse presia. A me non avevo di sicuro. Voi ad mettermi a sbarargli addosso dei pori cristi che aveva spose, mame, fioi, mi ricordevo ancora le parole del parroco, anche se non parlevo con nessun figurarsi, boni da metterti al mur per una roba del genere. Tutum, tutum, tutum, con le rue che tontoneva sulle rotaie della ferrata, finché indì come un altro sembrivai al posto, che era una città, granda, grandona, l'Emberg che ci aveva i toderi. Ma quasi appena arrivai, i miei compagni che curioseva dappertutto, e escomizia a dire, l'Elvo, l'Elvo! Perché era mio fuori che in questa città abitava gente di tutti i posti, ma i putanti erano ebrei. Io non sapevo niente di questi ebrei e neanche degli altri, che sono venuti a sapere che era ucraini, polacchi, toderi, zen che veniva dalle Cine. Chissà do che era ste Cine. E i tedeschi, chi ci aveva l'Emberg, a quel che i polacchi gli ci aveva il Vo. Allora noi deavi, e pareva da ridere, essere partiti dalla stazione del Vo per arrivare alla stazione del Vo. Tanti azar per non muoversi neanche. Rider. Rider per lo pianzer, mezzo a sto gaser. Sapevo che avevo sé, tanta sé. Vote in bicer de vim. Vim. No. Niente vim. Quel che lascio bevere agli altri. Una scudella de latte. Piuttosto. Ma no, ma che discorsi è? Che avevi bisogno voi del latte? Mi basteria un gos de acqua. Deve essere stato tutto il fumo, la polvere del viaso. Te vai, è come se te tresci addosso e un sacco di polvere. Te si secca la gola, i polmoni. Te sete in uquertà? Non è stato tempo di pensare alla polvere. Mi la mandai subito al fronte, dove che sbareva su sé. Oh, sbareve, manca noi, sbareve. Mico il Meruzzuk dovevo essere in prima linea per coparne di più. E sta lì che mi son sentì perso. Dio di me, intorno a me, noi sigaglio fevo altro che sentire fire, fire! Ormai sapevo cosa voleva dire. Dopo tutti i mesi a sentire il zig-zag come chiamavano noi per ridere in tedesco, ormai slambrotevo su qualcosa in casa. Ma in quel momento mi venivano in mente le parole del parroco. Le porazenta anche a noi, i nemici. Secondo quel che mi aveva insegnato, mico il Meruxuk dovevo coparne tanti, ma pure tu dovevo andare a botta sicura, come coi miei guys for sale. Ma sì, ma questi non erano mica guys for sale. E intorno alla mia posizione, che ne erano altri deavi, i miei compagni, anche di quei che se mardeva intorno smarì, anche di quei che canteva le canzoni della vittoria e non sapeva cosa fare, proprio come me, che aveva una paura matta, proprio come me. Non vi state a pensare che era il andare avanti, avanti, vincere, o almeno pareva, davanti di noi nemici, in evaso come le foglie d'autunno. Ma anche tra i noci, te vedevi tanti per terra. Mi prendevo come una furia, come se a pregare potesse succedere qualcosa che mi dicesse cosa fare. Fire! Fire! Che avevo le reci sorde, schioppai a forza dei colpi dei canon di bombarda, di sciop, di mitraglia. Fire! Fire! A un certo punto ho visto tutto lì che mi squadreva con aria cattiva. Non so da quanto gli era lì. Allora ho c'ha ancora più paura. Più avanti mi sono scorche sora i nemici. Se vedeva gli elmetti, manca le teste che erano attorno là. Ho capito dopo cosa che era. Sbaragli addosso. Resta un momento. Entrai sì che il casere e tutto quanto. L'era difficile per gli altri capire per dove che sbarivo. Così da anche qui che mi vardiva e a scominzia a interessarsi a qualcos'altro. Avanti. Avanti. Finché ne si fermai. Pareva tu facile. Facile. Era una motta de morti. Morire non è mai facile. Altro che va. Finalmente mi la mandai al cambio, giusto per farne tirare il fiato. E ne diceva che gli avevo poche perdite, quasi niga, voleva dire pochi morti o feriti gravi, di quei che non sarei più tornare in guerra. Sì, pensavo, per quei che morre perdite d'estate dal tutto, e quei feriti, se se la caveva, veniva da pensare se noi avesse perso quasi tutto in calore. Nelle retrovie, dove ne mandati a polsare della guerra, tutti e corresti a vedersi che era posta. Lì mi sono scorto che non avevo più notizie di mia mamma. L'avevo pensata sempre, ma non era venuto in mente delle lettere, da dire che ne doveva essere le lettere degli altri. Ma pareva che ne fosse poco niente per gli altri, per me niente al tutto. Era facile lunga dappertutto. Mi guardavo gli altri e devo essere che pareste in can bastona, perché mi batteva una mano sulla spalla e mi diceva: «L'è la guerra! L'è la guerra!» Non funziona niente, sape mamma, in la guerra, neanche i sciopi di tanto in tanto. Uno mi ha detto: «Ma scrive sorella, la dici tu ben con tua mamma?» Ecco, resta lì che mi sono nascosto, che era mesi che nessuno mi diceva più niente. Mi giravo la testa sempre le robe che mi aveva detto, così da mi pareva di averle appena sentite. Questo era mesi. Allora sono andato a quel che mi ha detto sua sorella e gli ho domandato per piacere di rispondere, che anche a me ero tornata alla prima linea, ero un drio e stavo bene. Mi ha detto sì. Se tornai al fronte anche noi, adesso non era più nessuno con la voglia di cantare. La guerra l'avevano vista tutti e ne era passata la voglia. Qualche ufficiale l'ha cercata in via, ma non sta nessuno che viene a Drio. E allora la tassesta in calma. E sta solo il momento che mi pareva che nascesse in coro, quando il sergente l'attacca via, salvi Dio l'imperatore. Allora ne venne in mente che noi eravamo le guardie dell'imperatore. Era qualcheduno che è Drio. Ma piano, moci, più che altro pareva qualcosa come de profondi. Un altro motivo di dispiacere per tutti era l'idea che non avresti in ciapa posta. Si arrivava così poca roba al comando, dove che era la ferrovia, che viaggiava con Vienna 2 o 3 volte al dì, figurasse in posti dove sa portarne la minestra l'era ogni volta a risciare la pelle, e ogni tanto i grazonteva coi pori diavoli per portarne da mangiare. La posta poteva desmentegarnela, anche perché i russi, i nemici, che prima pareva che si capisse, più che altro adesso gli arrivava al contrattacco, e ne toccava a noi resistere, e a vedere come che sbareva a loro la storia del poron con la sposa, la mamma e i fiori, non era stato nessun palo a contartela. Adesso erano noi le buse, e non serviva che ne si desse foie, sbarevo come un dananca mi, e cerchevo di ciapparla mia. Solo per rispetto al parroco continuavo a dire su vecchie, per quei che avrei a sapare i miei balottoli. E spara! E spara! Non capivo più niente! Anche come se pensa la scorta me, che la mebusa, andò che era moto disi, ero restami solo. No, proprio solo no. Sora l'orlo della busa che era dorussi, che mi vardeva sbarare come matto. E appena mi son fermato e i m'ha visti, i m'ha ciapato di mira. Non potevo far altro. Ho alzato le mani e ho disso le mie ultime orazioni. Sarà lo sta qui, o lo so, fatto sa che mi fa saltare fuori dalla busa e mi spedì sulla strada della Siberia. Dico così tanto, perché non sapevo dove ero e tanto meno e dove che ero di io nato. Mi ha messo in una colonna. E io divino che era nessuno. Davanti che n'era di qui che era partì con me. Il genio dei magi era uno. E vardeva per terra e camminava deciso come se l'avesse dovesse arrivare dall'altra parte della Siberia. Dopo mi ha messo su un treno. Dopo ancora a pe. Dopo su dei careti, finché siamo arrivati in un posto, che non sapria come dire, era il nome scritto da qualche parte, ma l'era scritto in russo e mi non era buono di leggere neanche l'italiano. Però stavolta mi sono messo, e nell'affare di qualche settimana potevo capirmi con le guardie. L'ori era beciotti, ho messi male, perché qui che zoveni e che steva bene, i la spedigli al fronte. E dopo si vede che la gioventù e la salute non è sempre una fortuna. E di. E Rodrigo dire un bel di, ma non è proprio il caso. Radio Scarpa non la fa sapere che anche l'Italia l'aveva scominziata la guerra contro l'Austria. Sono restati tutti come la pelle dei fic. Per quel po' che sapeva noi, l'Italia l'aveva fatta un'alleanza con l'Austria prima della guerra. Insomma, Zai Toderli ne vardeva male. Dopo sta storia, io avrei voluto doppiare il bastone. Così te l'aveva detto alle guardie che era meglio che ne mettesse in baracche diverse, magari lontane. E il posto dove era? Era vicino a un paese che aveva diverse frazioni e quasi ogni frazione l'aveva una tenuta come quella del Marchese di San Leonardo, ma più grande, con tanta gente che laureva e che viveva. Noi stavamo in diverse baracche. Una l'era diventata quella italiana, anche se mi, ma anche tanti miei compagni, credo, erano convinti di essere sudditi dell'imperatore e contenti di essere. Le separate erano lunghe, con finestre piccole per tenere fuori il freddo che se potesse. I russi ne descrivevano un caretone di legna davanti alla porta e noi dovevamo portarla dentro per tenere il pizzan fornello. Senza di quello saremmo morti di freddo. Senza invece stavamo abbastanza tiepidi e dormivamo su dei tavoloni lunghi, portai con un po' di paia. Tanti pioggi. L'inverno andava avanti. Il giornale era corte, o almeno pareva. Ora era sempre strofe, il tempo non passava mai. Per fortuna che nella mia baracca c'era anche due o tre miei compagni che mi faceva da postini, come diceva loro, e mi dava notizie di mia mamma e a ella le mie. Era anche il genio dei masi. Guardava fuori ante strofe, come se potesse vedere qualcosa. Mi ero diventato amico del matto de Roverito. E se ci aveva Natale, l'aveva fa scuole e artigianei a Trenta e l'aveva imparato anche al mister de Scarpolimo Caglier, come gli diceva da qualche banda. Era un tipo simpatico, rideva volentieri. Era venuta che anche lui aveva ruzzo, come me. Non me l'ha mai detto, ma penso che l'avesse fatto un pensier compagno del mio sul fatto della mira. Non so se anche la sua la partisse da storia. Fatto sì che sentir lui non era mai sta a casa una volta. E se non mai ci fa di mira una bestia, il diseva. Senza un po' andare avanti. E non aveva neanche a mio questa scarpa. Così dalla baracca aveva qualcosa da fare. E anche da dirlo, i nostri compagni gli aveva tutti quanti i dei dei pei che avanzava fuori dai scarponi. E camminare nella neve per poche tocchese non era proprio in bell'ar. De modo che veniva a domandare aiuto e pagava con un po' di tabacco e qualche altra trappola che gli aveva Dio. Natale mi conteva che se la fa procurare qualche ordine da dai russi e a forza di ciacole e li aveva convinti a dargli gli stivai che dopreva loro, i valenchi, che pareva di pesa. Forse gli era proprio di pesa. A sentire il Natale gli era di feltro e dentro gli era asciutti, a parte la spruzza dei pei, e caldi, che te stevi ben un manca messa alla neve. I nostri compagni ne ardeva e gli diceva che pareva stupidi a metterne quelle robe lì, e lui che diceva che gli aveva ragione, sempre ragione. Natale sì, e mi conteva che per averglieli l'aveva aggiustata al quanti pari le scarpe da donna, perché i russi gli era sì guardie, ma i feva anche ai contadini e gaveva famiglia. E ogni tanto mi feva capire che le signore le era così contente del suo lavoro che le chiedeva un po' di ristoro extra. A un certo punto aveva visto una sdreia di carico la cross rossa, aveva pensato sarà lì per noi. Chi era per tutti? Chi era la posta? Che era anche qualche pacchetto, roba di miseria, ma per tutti l'era oro. Mi stevo un ten canton, aspettevo. A un certo punto sento che i tacca a brigar, a begar come a criar come se i beghesse. E invece gli pareva contenti, a me ma in pochi dei loro. Succedeva che dopo che l'Italia l'aveva scominciata la guerra, la marchesa di San Leonardo, no, una santa donna, a sentire il genio che la conosceva pulito, l'era di obbligare per far tornare a casa italiana. Tutti pareva matti. Né ma casa, e criva. Anche da dirlo che i toderli gli è venuti a saperlo quasi prima di noi e ne vardeva ancora più de traversi. A sentir loro, noi eravamo qui che non avevamo mai fatto il nostro dovere e per di più adesso volevamo tradire la patria per tornare a casa. Gliacchi dei vigliacchi che non eravamo altro. Mi era fuori di farsi del male. Per fortuna avevo capito che la storia era un po' lunga e non che sarebbe stata stamana neanche per tutti, perché bisognava essere di una certa zona e notarsi per sudditi italiani. A me sta storia non la meneva. Sudditi italiani. Mi non vado a criticare nessuno, ma per quel po' che sentivo, in Italia si stava peso che col nostro imperatore. E diceva che italiani non gli aveva tanta voglia di lavorare su e zon, insomma tante storie che non pareva proprio in gran affare. Per de più mi era un Kaiserjäger col Rucksack, una guardia difensor dell'imperatore. Come si fa a cambiare faccia a questo modo? Mi sarò un porcaio di vera, ma non vigliacco e traditore. Quelli poteva tenerselo per lui. Intanto continuava a arrivare apposta. No tanta, ma abbastanza. Mi non mi pareva bene ogni volta domandarvi, e allora stevo un tencanton, portevo pazienza. E lì che pioveva. Ero appena tornata alla giornata. Vedo uno che mi guarda. Il fatto era che chi voleva poteva andare in giornata ai contadini d'intorno Lavoravamo in campagna e ne deva 5 copeche al dì e da mangiare. Per de pur mi giustevo scarpe e scarpette, gavevo qualcosa da parte. Avria volesse mandarti i soldi a casa, ma come si fa? E insomma diceva, che uno che me barta, un altro anca, e che un terzo, e il Toni Morer, che il vardeva la solitera e poi me vardeva me. Allora me ne ancora in gola. Non avevo altro che la forza di mandargli dice qualcosa. Sono pure avanti. Allora Toni Morer la fa per davvero bocca, battendo i dei sulla carta come per dire le scricchie mi non che podo, quando gli altri due i che saltati addosso e i che sprega fuor da lettera dalle mamme e poi mi ha dito sì, finalmente. E il Toni Morer, ma chi? Tasi ti che non ti sei mai stabon de leser. E poi a me, ma vara che bene, adesso la te aspetta, adesso che la signora Marchesa, e poi noi è punai avanti. Per Natale le rampai spondrio, mi venivo vicino e mi ha messo un braccio sulle spalle. A guardare gli altri due non si è detto niente, so solo che mi ha strenzù come un popo. E poi mi ha detto, ma vara, che bene, beato ti che te può di notarte, mi per la far di neanche 5 chilometri son taglia fora, beato ti, beato ti. Io non sapevo sa dire, mi pareva robe dell'altro mondo, però avevo un roseghino. E colpo pensavo, ma lo pensavo e mi veniu il mago grosso come una montagna, perché se della banda pensavo di poter tornare come quando Dio e la Marchesa gli avesse voluto. Dall'altra pensavo al giuramento a quel porvecchio e pensavo che non si può tradire i giuramenti. Io non potevo, non ero uno qualunque, avevo una fedeltà più grossa. Era un guardiano corruzzo, anche se non avevo, se capisci, ma era come se avesse in mano. Io pensavo che il fiolo, se lo mantiene una parola una volta, il può non mantenerla sempre. E un fiol così non l'avreste voluto, vera mamma? Noi dicevamo, per Dio, l'imperatore e la patria, e se capisce anche la famiglia, erano tutti d'accordo. Insomma, ne sciopeva il cuore, ma non potevo far altro. Quando i miei compagni venivano a dirmi di notarmi, e col primo col secondo treno sarei partito anche a me, trovammi gli scuse, che non ero buono da firmare, che firmesse l'ori che aveva la sposa e i fiori. E genio ogni tanto il pianzeva, e il diceva, me fiori, l'emo, avrà 2 anni oramai, o forse anche di più, non sono più buono da contare, sperente che Dio mi giunta a trovare la strada per casa. Mi nevo tutti lì fuori a lavorare in campagna. I giornali erano lunghi, era da fare. Mi lavoravo come mi aveva insegnato Avi. Tirevo le cole dritte, drio il cavallo. Somenevo con la testa prima che con le mani. E il contadino e il parò, l'era tu contente mie del Natale, tanto a un certo punto Olga domandò il comando se poteva lasciarne dormire a sua casa. Così guadagnemo quel par di ore per andare a venire dai campi. E non si capiva di sì. Allora non gli interessava più di tanto. Insomma, gli si è messi d'accordo. Sentai in sta isma, che era un casone di legno con pochi locali. E te un gran fornelon, gran come in careta, sempre caldo, perché non erano ancora tempi di maniche di camisa. Noi, in avessi a dormire, con una querta sola sto fornelon. Se steva un caldi che in te la baracca, e se maniva due volte al dì. L'unica roba che andava a cambiare era della fioci. Sopra sto fornellon se dormiva uomini e donne, per dir che era anche la sposa del contadino e le soffiori. Gli altri laurenti i dormivano in telfenil sopra la stalla, e stiva abbastanza bene, manca calori per via del calore delle bestie e del fel. Il profumo gli era quasi sempre gli stessi. Così t'hanno rendisti quando che partì per il treno. Non ero notà. Non ero notà. Potevo dire che ero via dal contadin che m'ero desmentegà. Ma voi mamma sape ben che non avevo desmentegà proprio in ben niente. La notte pianzevo de scondone. Dormivo poco anche se ero stra per il lavoro. Così da vedevo il Natale che andava a curargli i pioggi a qualche dun. Mi girevo dall'altra per non vedere. Non ero notà. Così ho perso anche il secondo treno. Perché in tanti ne ha chiamati de volta entre le nostre baracche e ne ha diti che la storia l'era un po' cambiata. Che basteva notarsi per sudditi italiani per poter partire. Così tal era che si aveva messa d'accordo la signora Marchesa. Però basta col giro su un cima alla Russia e posò il mare. Adesso l'era un po' pungartiata. Bisognava fare il giro di tutta la Siberia e poi anche la Cina. E insomma, il giro del mondo. Natale, che già pensa su un momento e poi mi ha detto: Depina, ti fa quel che ti pare, ma a me sta occasione chi non può perderla. Sarà chissà che viaggio, però sperente di trovare la strada per casa. Vai anche a te. Mi sono guardato intorno. Le nostre baracche erano piene di terlaine. Se vedeva solo tedeschi e pochi italiani. No che ne piacesse con le baracche piociose, ma lì dentro che resta i nostri compagni. Insomma, avvivenvi vespere a quanti mesi. Sono stata in età. Mi si è venuta in mente come la Madonna. E mi pareva che mi dicesse: fa quel che te par più giusto. Allora ne sembra abbracciai con Natale. Dura scollò la testa, l'aveva già capito. Ma dite, la finirà anche per te. Te tornerai con tutti gli onori. Dico dite, salutami mia mamma se te la vedi. Dighe che stavo bene. E so gira dall'altra. E ma dite sì. E poi l'ha dimandato dove doveva notarsi. Così te ne sembra sano. Va lo salutavano. Quando il contadino mi ha visto tornare, pareva una festa. E mi ha detto che non avrei voluto molarmi per tu l'oro del mondo, che mi tolesse sua fiola, quella che mi piaceva di più, e lui mi aveva tolto come fiore. Non mi ha domandato il Natale. Poi le robe le spediziano all'impressa. La mattina ero drionare in te i campi, il contadino mi fermai, mi ha detto: la guerra le finia. Aven cambiato governo, la guerra le finia. Sarei contento, lo dirmi, ma non mi pareva mica massa. E il zar, non che pu, che sta la rivoluzione. Io non sapevo sa dire. La rivoluzione non la mi pare una gran bella roba. Neanche la guerra per quello, ma dove era noi non si vedeva né guerra né rivoluzione. Sì, sì, da dire. Ma quelle malattie lì le fa presto a fare il giro del mondo. Insomma, voleva sapere se avevo deciso qualcosa per soffiore. Mi ho detto ancora di no. Che dovevo pensare. Lui ha detto che non voleva attuarmi, ma con la fine della guerra potevo andare anche a me drio al mio desar. Insomma, non era più preso nero, ma meglio di tutto. Sarebbe stato fermarmi lì. e il vedevo da me posta quanta terra che era da lavorare. Mi sarei stato dei paroni. Mi, e il Pepino dal Vic, paron. Sabe par, mamma? Sì. Pensa anche a me la stessa roba. Paroni se nasce e non se nasce al Vic. Non è niente di male. Se può vivere benoma anche senza essere paroni di niente. Anzi, alle volte mi vengo a pensare che non si viva meno. Insomma, dico di che dovevo pensare che sopra, che portesse pazienza. Un sabato intorno per le sotere e l'ha detto, sperente che ne dà dal tempo di avere che pazienza. Ma non l'ha insistito. Intanto, è arrivato l'inverno un'altra volta. E in Russia l'inverno non arriva mai in ten colpo, ma tutto in ten colpo. Non si vede altro. Altro che giazza per tutti. Per fortuna loro erano abituati e gli aveva messo via tutto a tempo. Adesso era ora di andare entro i boschi per legna e di star dietro le bestie. Una mattina ero fuori dalla stalla vicino al Poliner e ho ciapato un colpo al collo. Mamma, sapevano che era che è sul confine del nostro ortesello? Quella che gli porteva le noce anche alla bigiotta che la serviva l'olio per frise. Beh, lì tacà, che è il nostro Poliner, che il par niente a peto di quel del contadino in Russia. Mi ricordo, quando veniva freddo, che era una merla vecchia, con ala ciara, quasi bianca, che la soffegheva a migolin. Mi ricordo che la neva a mangiare entro il paston delle galine e l'ore le lasciava fare. Mi era stata impresa perché quelle sbeteghe di galine non le esce larghe di manega, le si sbecchiette tra di loro anche per un grande salto, ma con la merla neanche una piega. Mi pensavo che fosse per via dell'età, che l'alla ciara quasi bianca la fosse come i cavei dei veci che diventa bianchi. A voi no, mamma, neanche un filo. Ma voi se vede che siete una razza più buona. Insomma, dicevo, ero fuori dal Poliner e mi son visto di fronte la merla. Qui la merla! Voi mi direte che tante merle vecere si somiglia, cosa che da farsi tanta meraviglia, per una ala ciara quasi bianca, sì, ma la supplichiva anche questa. E ancora mi direte, non la sarà mica l'unica merla al mondo che supplica amico lì. Ma il colpo grosso è quando che ho visto che la neva becolare entro il paston delle galine e l'ore le lasciava fare. Garantisco mica che le galine russe, le esbeteghe come quelle di avi e forse anche di più perché le ciocca per russo che fa più gazer. Ma con la merla neanche una piega. Ma il colpo grosso le sta quando che ho visto che la merla la meva ardeva, la becchetteva e la meva ardeva, come se mi dovesse capire qualcosa. E vi giuro, mamma, che ho capito. Sono andato al contadino, lo dico che avevo tolto una decisione, che mi desse i miei soldi se mi veniva, se no era gli stessi. Dovevo partire. Ma dove? Mi ha domandato il contadino. Drio alla me. Manca il coraggio di dirglielo. Contadino la scolla la testa, non si può sapere. E nella vita forse te hai reso. E mi ha dato i miei soldi, tanti. E mi ha detto di non preoccuparmi, tanto mi ero guadagnai e a lui noi che sarei servito. E mi ha stranzù tra i bracci. E mi ha detto, va, gli altri te saluto. Mi sono messo in viaggio. La merla, avanti, a sgoliti, e mi subì dopo. Ogni tanto si fermava per vedere se gli tignivo drio. Non so quante passà. Mi fermavano per cercare qualcosa da mangiare e da bere. Finché la sera era sì freddo, ma sì freddo, che ho visto la merla fermarsi per terra come non fosse più buona di muoversi. Allora mi sono andato vicino, l'ho tolta tra le mani e ho cercato di scaldarla. E la mi sbatteva gli occhietti come per dirmi grazie. E intanto camminevo, ma sempre più piano, perché ero stracca anche a me. E pareva di aver da attraversare un mondo e di avergene un altro dove avrei dovesse passare. Strac, proprio strac. E pareva di vedere una lucetta in lontananza, come in tante storie che mi conteneva quando ero popo, ma non che arrivevo mai. Avevo messo la merla nella sposa perché la stessa era caldo. Ogni tanto la pioleva fuori come per dirmi grazie, per farmi coraggio. Finché non che l'ho fatta più. La lucita era ormai vicina e pareva di conoscerla. Ho pensato, adesso, spolso, ho voluto in tocca. La più maledetta, diciamo, venirà a turno. Mi sono postato a un albero, tu bianca, e devo essere sbrisciata per te. Entro mensa. Quando mi sono desbrisciata, ero qui, strac mort, ma ancora un trec, con le piaghe dappertutto, ma un trec. Sono arrivato a voi. Sì, te sei arrivato. Adesso ti può dispolsare. E la merla? Me l'aveva mandata a voi? Non mi so sbagliare, no? No, l'era come te pensavi. Adesso non l'hai che tu. Sarà Zubasca, perché mai alzando le galine, chi non è più così freddo? La merla l'ha fatto il suo dovere. E adesso si la gode. Sì, l'ha fatto tutto quel che la doveva. Come ti? Mi devo pulsare, lasciar che guarisca le piaghe e poco da tornare dal mio reggimento. Mi sono una guardia del... No, no. Anche a te t'hai fatto il tuo dovere. Adesso basta che ti staghi qui. Quando fui sui monti scarpassi, miserere sentivo cantar. T'ho cercato tra il vento e crepassi, a una croce soltanto trovar. Starò con voi, mamma, non vi lascio più. Giusta, non te hai più bisogno di camminare in volta. Vera, se si stracca, tanto da morire. Adesso sera gli occhi e spolsa, spolsa. O mio sposo, eri andato soldato per difendere l'imperator, ma la morte quassù hai trovato e mai più non potrai ritornare. Maledetta la sia questa guerra che m'ha dato sì tanto dolor. Il tuo sangue hai donato alla terra, hai distrutto la tua gioventù. Io vorrei scavarmi una fossa, seppellirmi vorrei da me, per poter collocare le mie ossa.